Buongiorno intanto Francesco Bettini, direttore artistico di Bologna Jazz Festival e Jazz Club Ferrara. Dopo lo stop della pandemia abbiamo un nuovo progetto. Artisticamente di cosa si tratta? Artisticamente si tratta di consolidare e mettere in rete la programmazione di tre realtà. È una programmazione che è stata fatta a monte, ma ovviamente coordinata, di tre realtà che cooperano da tantissimi anni. E da oltre un decennio Ferrara con Crossroad Jazz Alto in Emilia Romagna, da 15 anni Ferrara con Bologna. Crossroad e Bologna hanno collaborato già in passato e attualmente sono partner per un progetto regionale, la Legge 2. E quindi tutto quello che fondamentalmente era preesistente, visto che va attraverso i singoli network generati dai tre soggetti a costituire un grandissimo network regionale, vuole essere una sintesi, ma al tempo stesso un coordinamento in maniera tale che, come dire, ci possano essere magari accavallamenti di programmazione, ma in territori diversi della regione, quindi cercando di coinvolgere il pubblico e di distribuire il pubblico su tutto il tessuto regionale. E cosa potremo aspettarci di vedere e di sentire sul palco? Tantissimi artisti internazionali, ovviamente, nell'ambito del Bologna Jazz Festival, perché rimangono le tre realtà. Nell'ambito del Bologna Jazz Festival in autunno ci sarà Brad Meldau, Joshua Redman, Christian McBride, Brian Blade, la Mingus Big Band, insomma c'è già un programma che stiamo costruendo e che uscirà sia come Bologna Jazz Festival che all'interno della piattaforma regionale Jazzer, suppongo intorno ai primi di settembre. Unitamente a questo ci sarà la seconda parte della stagione di Ferrara in Jazz, o la prima, cioè il trimestre ottobre, novembre, dicembre, e invece ora nell'immediato c'è la coda del Jazz Club di Ferrara, c'è qualche appuntamento che il Bologna Jazz Festival sta facendo anche per progetti didattici o residenze artistiche nel mese di maggio, ma c'è soprattutto la grande coda di Crossroad Jazz Alto in Emilia Romagna e quindi il Festival di Ravenna e Correggio in primis, dove non so, ci saranno Pat Metini, tantissimi grandi interpreti del jazz nazionale e internazionale. E qual è l'obiettivo di questa unione di intenti? Ma è quello di consolidare questo rapporto particolarmente stretto tra i tre soggetti cooperanti e di estenderlo a tutti coloro che già lavorano insieme ai singoli soggetti ed eventualmente a terzi, in modo da partecipare a delle chiamate di bando insieme o magari per sottogruppi a seconda delle finalità sia territoriali anche che di produzione, che non è solo concertistica, ma è, diciamo, a che vedere con tutta la cultura jazzistica, per cui anche la formazione, la didattica, la produzione di pubblico e anche tante discipline multimediali che si fanno in collaborazione con la Cineteca, il Vicino, insomma. Grazie mille Francesco Bettini per la disponibilità. Grazie a te.